piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. I turni della notte sono veramente atroci. Io l'altra notte mi sono bardata alle 21 e mi sono tolta il camice, la maschera, quella che ti distrugge la faccia, e tutto il resto alle 5 del mattino. Nei turni di notte siamo solamente in tre infermieri che devono sopperire a tutto. L'unica comunicazione che riusciamo a avere con loro è con gli occhi, e io con gli occhi pieni di disperazione mi fa male proprio non riuscire ad aiutarli. Cerco in ogni modo, magari toccandogli una gamba, cercando di fargli fare un messaggino ai figli, perché loro sono senza i parenti, non hanno nessuno, hanno solo noi. È veramente, veramente molto dura. A parlare era Maria Cristina Settembrese, una infermiera dell'ospedale San Paolo di Milano, e l'intervista è del TG3. Come ieri abbiamo parlato delle persone che stanno lungo le strade, dei camionisti, oggi vogliamo toccare un'altra categoria di persone che in questo momento hanno le vite più stravolte di quanto mediamente le abbia stravolte ogni cittadino riguardo al Covid-19. Costoro sono gli infermieri e i professionisti sanitari in generale, gli operatori sanitari, gli operatori sociosanitari. Sono le persone più esposte in questo momento, che sono quelle che stanno più a contatto diretto con la gente che sta male e con la gente che muore soprattutto. Questa mattina mi ha scritto un amico raccontandomi la storia di una persona che lui conosce. Ieri sera suo padre di 80 anni, malato, è stato prelevato a casa perché stava male, aveva il Covid-19, è stato portato all'ospedale. Dopo 24 ore il padre è morto. Né lui né la madre hanno avuto più notizie né possibilità di sentire la voce del padre, perché il telefono lo aveva lasciato a casa nella fretta di essere portato via. Ecco, io avevo accennato giorni fa questo frangente che mi sembrava eccessivamente cruento da raccontare, ma in questo momento chi muore, muore totalmente solo, muore lontano dalla famiglia, gioco forza, è impossibile che uno abbia vicino una persona di famiglia, una persona cara. E quando ti portano via, se sei anziano, il tuo destino è quello di non farcela, e potrebbe accadere. È la circostanza terribile che le uniche persone con cui stai in contatto sono proprio i professionisti sanitari che ti aiutano al trapasso. E questo è qualcosa che va detto, perché sennò la prendiamo troppo in allegria. Io vedo ancora persone che scendono in piazza, ballano, sono contenti. Sento un aspetto garrulo e di elaborazione in questo momento terribile che non posso assolutamente criticare, anche se non me ne sento coinvolto, lo dico sinceramente. E come non mi sento coinvolto da questo braccio di ferro continuo, come se ci fossero delle forzature nei comportamenti e bisogna trovare per forza delle scuse per eluderli. Sentivo la collega questa mattina, Rosciani, che parlava di una signora, voleva per forza andare a 20 km a fare la spesa perché lì va sempre, perché lì risparmia. È come se le regole fossero fatte così per pochi privilegiati. So di amici comuni che se ne sono andati tranquillamente in montagna perché dice: c'ho la casa, perché non ci devo andare? Ecco, mi dispiace sentire questo senso generale, che sembra un po' come a scuola, quando per forza bisogna fare qualcosa per contraddire l'insegnante, perché pensiamo che quelle regole siano regole superflue. Ecco, sono regole in questo momento che possono evitare a molte di quelle persone di morire, soprattutto di morire da sole. La prima persona che voglio sentire è una storia, la storia di una donna che ha un figlio, vive con suo figlio e è una operatrice sanitaria, sociosanitaria, lavora in un ospedale del centro Italia, nel reparto Covid. Non voglio specificare dove, perché non è importante sapere in quale ospedale lavora, ma è importante la sua storia. Dania, buongiorno. Ciao, buongiorno a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori. Io sono un'operatrice. Dania, devo dire, Dania la conosciamo perché è un'ascoltatrice storica della nostra trasmissione, ci ha seguito in tutte le nostre transumanze più epiche, dalla notte dei cento, dai bei tempi che andavamo in giro a fare cose che raccoglievano tante persone, ci sembrava un successo mettere tante persone assieme, la notte delle Barbie, abbiamo fatte tante. Ecco, oggi questi ascoltatori li becchiamo uno per uno, li becchiamo soprattutto, li prendiamo nella loro espressione individuale e professionale. Allora Dania, scusa che ti ho interrotto. Allora, il mio reparto da circa 10 giorni ha subito una trasformazione, è passato da essere un reparto di medicina generale a malattie infettive solo per pazienti positivi, risultati positivi al tampone Covid-19. Quindi noi operatori siamo stati in pochi giorni catapultati in una realtà diversa. C'è stata fatta una breve formazione soprattutto per l'utilizzo corretto dell'imbracatura da indossare prima di entrare nelle stanze, prima di essere a contatto con il paziente. Ecco, me lo spieghi bene cos'è questa imbracatura? Intanto dico alle persone che ci ascoltano e possono chiamare all'800240024. Oggi vorrei selezionare interventi legati alla categoria dei professionisti sanitari. O se avete qualcuno in famiglia che fa questo lavoro, o se avete avuto conoscenza, o se questo è il vostro lavoro. Ecco, cos'è questa imbracatura? Me lo spieghi? Allora, si tratta dei DPI, dispositivi di protezione individuale, che per il Covid-19 sono la cuffia per la testa, poi la mascherina, che dovrebbe essere, uso il condizionale perché se scarseggiano si usano quelle che proteggono meno, diciamo, però dovrebbe essere un FP3 o FP2, quella chirurgica è acqua fresca, serve a poco, e poi abbiamo il camice, quello a rischio biologico, due paia di guanti e la visiera. Ecco, queste dotazioni tu hai imparato a usarle adesso? Scusa. In questo momento hai imparato a usarle o erano di abituale uso nella tua professione? No, allora avevamo a volte dei positivi, ma per tipo la Klebsiella, che basta un camicino in tessuto o non tessuto e guanti, quelli sempre per qualsiasi paziente infetto o no. Ma questa qui invece, questa imbracatura qui, è una cosa che abbiamo imparato ora sul campo. Ecco. La tua vita è molto cambiata negli aspetti della relazione, soprattutto gli aspetti familiari. Chiaramente tu osservi le regole di sicurezza che tutti osserviamo, ma in più tu hai la consapevolezza di essere più esposta di altre persone. Tu vedi le persone che hanno il problema conclamato, reale, le vedi nei momenti di maggiore difficoltà, stai loro vicino. Ti senti più esposta? È una sensazione che tu provi, sì, quello di essere più esposta di altri? È inutile fare gli eroi e girarci attorno, la paura c'è, è molta, cioè quando sei vicino al paziente hai paura di venire contagiato, la paura c'è al 100%, però altrimenti, cioè, abbiamo scelto questo lavoro, altrimenti facevamo i professori universitari, le maestrine, e a quest'ora eravamo a casa, cioè sappiamo di poter andare incontro a questa cosa, però lo facciamo ugualmente. Ecco, mi parli, diciamo, anche come è cambiato l'orario e il tempo da dedicare al lavoro rispetto a soltanto un mese fa. Allora, per quanto riguarda i turni, per adesso, non, almeno nel mio reparto, nel mio ospedale, non c'è stato chiesto di aumentare le ore lavorative. Magari veniamo richiamati su un riposo, ma quello per il sottorganico, per i tagli che ci sono stati, succedeva anche prima magari. E l'unica cosa, sono pazienti più impegnativi, è più pesante sia il lato psicologico, sia il lato proprio di cosa c'è da fare. Anche, ecco, parlami del lato psicologico, perché quello va oltre ciò che ti hanno insegnato nel corso da operatrice sociosanitaria, secondo me. Quali sono i problemi umani che ti trovi a affrontare per la prima volta in questa circostanza? Il lato psicologico, come hai detto te all'inizio trasmissione, è proprio il fatto che A me ancora non è capitato, nel mio reparto non è ancora capitato, ma se dovesse morire qualcuno, questa persona sarebbe sola, non avrebbe accanto nessun familiare, e questo cioè, è una cosa veramente, cioè, io non mi c'ero mai ritrovata, persone che iniziano a stare vicino al parente che sta per morire, iniziano anche un giorno prima, due giorni prima, non si staccano dalla stanza, invece questi sono soli come cani, abbandonati lì con la loro sofferenza. Perché questo impone il protocollo, diciamo, di sicurezza. Sì, perché il nostro reparto è proprio blindato all'esterno, nessuno, tranne noi operatori, nessuno può, dei parenti può venire. E in quel caso cosa avviene? Niente, la persona viene, diciamo, portata via, e non c'è possibilità, non c'è possibilità da parte della famiglia. Nemmeno. Poi viene portato via e lo rivedranno poi dopo nella sala mortuaria, ma in ospedale non c'è possibilità al parente di entrare nel nostro reparto. Allora, tu resta in collegamento, Dania, perché sarai, diciamo, il filo conduttore di tutta la puntata, un po' perché conosci la trasmissione, un po' perché ti conosciamo, un po' perché ci piace una testimonianza al di fuori ed anche dagli schemi ufficiali. Però volevo sentire, in questo momento, visto che ci ha chiamato, il segretario nazionale NURSIND, che è il sindacato di base degli infermieri, sono 40.000 iscritti. Andrea Bottega, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, lei ha scritto una lettera al presidente Conte qualche giorno fa, cosa diceva? Sì, in qualche modo rappresentavo il disagio che sta affrontando la categoria, chiedevo di ascoltare il grido che proviene dalle corsie e dal fronte per poter dotare gli strumenti necessari per la difesa della propria salute e poter erogare ancora salute ai nostri cittadini. Sappiamo che c'è carenza di dispositivi, come diceva prima la collega, individuali di protezione. La professione sta facendo uno sforzo tremendo, perché indossare questi dispositivi per diverse ore provoca anche delle lesioni. Le abbiamo viste girare foto sui social, sui siti internet. Cioè come delle piaghe da decubito, mi scusi il termine, non esatto. Sì. Sì, qualcosa esatto, del genere. Esatto, come delle lesioni cutanee derivanti dal fatto che non possiamo toglierci i presidi, principalmente guanti e maschere e gli occhiali prima della fine del turno. Questo implica anche non poter andare in bagno durante il turno, perché il cambio è uno solo. Ti danno. Ecco, lei ha scritto delle cose abbastanza agghiaccianti. Ci sono dei suoi colleghi costretti a farsi camici con i sacchi, quelli grigi, neri dalla spazzatura, o usare guanti di fortuna, o portarsi da casa perché non ci sono i presidi. Corrisponde a realtà questo, ho letto male? No, corrisponde alla realtà, l'abbiamo anche denunciata questa cosa. I colleghi, per esempio, del Piemonte hanno dovuto costruire dei camici con dei sacchi delle immondizie perché non erano disponibili. In Sicilia le colleghe a casa cucivano le mascherine con i lenzuoli perché non erano più disponibili in quella situazione dove ancora deve avvenire l'onda del contagio, e quindi ci si inventa qualcosa per potersi difendere da questo virus che purtroppo è molto contagioso. Ecco, mi chiedono alcuni ascoltatori perché i pazienti non possono usare il telefonino per comunicare con casa. Giorni fa una dottoressa intervistata da un collega, mi pare, del giornale, diceva: dateci dei tablet, almeno comunicano con casa anche nei momenti estremi. Beh, dipende dove sono ricoverati. Se sono ricoverati in rianimazione e quindi sono intubati, non possono comunicare. Raccontava prima bene la collega la situazione. Noi incoraggiamo e salutiamo il paziente nel momento in cui gli diciamo: guarda, per sopravvivere ti dobbiamo intubare, ti dobbiamo sedare e far respirare i tuoi polmoni attraverso una macchina. Ecco, lo spiega bene che significa. Noi questo termine in astratto sembra qualcosa, è come mettersi un cotto fiocco in un orecchio. Cosa significa farsi intubare e mettersi il casco? Significa che dobbiamo controllare gli scambi gassosi della persona, quindi la qualità e la quantità di ossigeno che viene scambiato in un polmone che in quel momento risulta fortemente danneggiato. Ecco, dal punto di vista della soggettiva della persona che viene intubata, cosa comporta per lui questo? Una mettersi dei tubi in bocca? Lui parte e comincia a dormire, poi c'è tutta l'attività di sedazione che viene fatta e di curarizzazione, in quanto deve essere la macchina che si sostituisce alla sua attività, quindi lui deve essere inerme, non può avere atti da contrastare quello che fa la macchina, per cui viene proprio sedato e curarizzato. Quindi la macchina diventa il suo polmone, quello che gli fa gli atti respiratori. E in questo noi dobbiamo, la nostra attività è anche quella di girare il paziente a pancia in giù, perché abbiamo visto che la pronazione, cioè lo stare a pancia in giù, dà una migliore qualità degli scambi gassosi e quindi del respiro. Sì, purtroppo ho visto i programmi televisivi, e l'avrei fatto a meno, ma per la dignità delle persone stanno lì, filmati di questi reparti in cui sono queste persone nude e pronate, perché quella è la maniera migliore per poter respirare. E nel caso peggiore le persone passano da questo stato diciamo alla morte senza rendersene conto. Sì, questo sì, e come diceva prima la collega, anche dal punto di vista delle relazioni umane passano senza avere un supporto, un ultimo saluto ai familiari. Ecco, noi vediamo sui social e sui giornali le foto delle cicatrici che portiamo sulla pelle. Queste sono la foto visibile dello sforzo che stiamo facendo. Forse quello che si vede meno, però è altrettanto forte, sono le cicatrici che abbiamo nell'anima, perché siamo gli ultimi che diamo il saluto a queste persone. E per noi è una conquista estrema portarli a riacquisire la coscienza e il respiro autonomo. Perderli è una sofferenza che ci segna tutta la vita, perché tutti noi... Ecco, quando una persona invece esce bene, per voi è una festa, vi rendete conto, potete togliere il respiratore e torna alla vita? Assolutamente sì, e tenga conto che molti sono anche nostri colleghi, medici ed infermieri, che si sono contagiati nella struttura, perché ad oggi la struttura ospedaliera è il punto di aggregazione più numeroso di tutto il paese, perché lì si concentrano le persone, ed è il punto in cui molto probabilmente gira di più il virus. Qui poi ci sono due posizioni, quella lombarda che ti dice dell'OMS... Ma aspetti, Bottega, sì. non la voglio farsi andare... Sintetizzare sì, troppo. Do la linea solo un istante, ci risentiamo un istante, riprendo con lei e con la sua collega Dania e ci raccontate quella la vostra vita quotidiana, perché per molti sembra che il problema sia quello di andare a fare la spesa nel supermercato d'affezione o farsi la passeggiatina o portare il cane fuori a pisciare. Vorrei far capire cos'è il coronavirus laddove si sviluppa nella sua scaturigine più virulenta e più nefasta. Ci fermiamo un istante. .800 24 0024, molti mi scrivono questa mattina la trasmissione è molto cruda, sì è molto cruda, ma questo è inutile nascondersi, vorrei qualcuno capisse esattamente cosa stiamo attraversando e capisse che la migliore maniera per evitare che accadano cose del genere o per arginare l'accadere di eventi del genere che mettono tutti addosso una grande tristezza e osservare le regole che vengono in tutte le maniere ripetute ogni giorno, starsene a casa. Spero che ci ascolti questa mattina il totale idiota di 35 anni che a Ischia è stato beccato dopo 2 ore che girava per strada con le borse della spesa, di una spesa che aveva fatto 3 ore prima. La scusa per andarsene a spasso era portarsi dietro le borse della spesa, ma hanno visto lo scontrino, hanno visto che alle 17 avevano scontrino fatto alle 12, hanno capito. Ecco, molti si sentono molto intelligenti di portare il cane fuori 5-6 volte al giorno, tutta la famiglia. Cioè abbiamo il cane, è la scusa per uscire. Uscire significa mettere delle persone nelle condizioni che stanno raccontando i nostri amici, professionisti sanitari. Ricordo che abbiamo al telefono Dania, che è un'operatrice sociosanitaria, che è anche una nostra ascoltatrice, e Andrea Bottega, che è il segretario nazionale NURSIND, che è il sindacato base di tutti gli infermieri, 40.000 infermieri. Ecco, Dania, rispetto a quello che ha detto il tuo collega, puoi aggiungere qualcosa proprio della tua esperienza personale? situazione, quindi... Pronto? Mi senti? Sì, sì. Il mio reparto... qualcuno mi dice, scusa un attimo Dania, qualcuno mi dice, sì. Si sentì la tua voce durante la pubblicità e sentono rumori. Ricordo che io sto a casa mia, non è proprio una cosa del tutto normale che la radio, che richiede delle dotazioni tecniche di insonorizzazione, che sono proprio degli studi, che riesca a trasmettere con i conduttori a casa. Di questo devo ringraziare tutti i colleghi proprio della parte tecnica della mia radio, che mi permette di continuare a fare il mio lavoro e a tenere un contatto diretto con i miei ascoltatori anche da casa mia. Sono seduto alla mia scrivania con la mia seggiolina, con una copertina sotto il microfono di casa, che non è certo quello professionale che usavo prima, per non fare troppo rumore. Questo è, di più non si può. Scusa Dania, continua. Allora, il collega raccontava di pazienti intubati. Fortunatamente, fra virgolette, nel mio reparto non siamo in rianimazione, io ho pazienti che positivi, ok, che sono piretici, hanno difficoltà respiratoria, ma non grave da dover essere intubati, quindi possono tenere il cellulare, possono comunicare con i loro cari, possono tenere un tablet, tutta la tecnologia di cui dispongono, non ci sono divieti. Sentiamo Andrea Bottega, so che poi deve lasciarci. C'è qualcosa che lei può aggiungere alla lettera scritta al presidente Conte, che è avvenuto negli ultimi 2 o 3 giorni, che le dà modo di mettere sul piatto altre richieste, se possibile, oltre quelle che già abbiamo, diciamo, raccontato e in parte ricordato questa mattina? Secondo me dobbiamo intenderci. Il Premier Conte ha parlato di contrasto di un'alluvione che sta investendo il Servizio Sanitario Nazionale, che non si può arginare con dei secchi e degli stracci, ma ci vuole una diga. Io vorrei sapere se questa diga prevede che gli infermieri stiano al di qua o al di là, e quindi tutti gli operatori sanitari, perché nel decreto che è stato approvato ieri, deve ancora essere pubblicato, dalle bozze che girano, per carità, si fa riferimento anche a una linea guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi tra l'altro domani, in collegamento con tutti i sindacati infermieristici del mondo, criticheremo e poi renderemo una posizione unica, che è quella di dire: guardate che chi è a contatto con i sanitari che vengono a contatto con pazienti Covid, è sufficiente dotarli di una mascherina chirurgica normale, come accennava prima anche la collega, che distinguendo ovviamente tra quelli che sono i sistemi di protezione maggiori, che sono le mascherine. Ecco, ma io penso una cosa, Bottega, scusi, siccome noi con coscienza cerchiamo di evitare contatti con chiunque, a meno che i familiari con cui viviamo sotto lo stesso tetto, voi quando tornate a casa con le vostre famiglie come vi comportate? I vostri amici vi vedono in maniera diversa, sapendo che fate questo lavoro e siete quelli che proprio entrano dentro il luogo più pericoloso da frequentare? Ci sono situazioni che possono essere anche antitetiche. Abbiamo avuto un caso a Cosenza, dove una signora che aveva l'appartamento libero di fronte al proprio pianerottolo e lo dava in affitto, e alcuni colleghi hanno chiesto di poterlo affittare, gli è stato risposto di no perché siamo infermieri e la figlia non aveva paura che contagiassimo la madre. Ci sono altre situazioni, io per esempio sono di Vicenza, quindi il mio comune si è in qualche modo attivato insieme con altre associazioni e con gli albergatori, ci danno a disposizione delle stanze negli alberghi per chi non se la sente di ritornare a casa. Può gratuitamente soggiornare presso questi alberghi, perché effettivamente c'è questa paura. Noi non siamo eroi, noi siamo persone che hanno gli stessi problemi di tutte le persone. Abbiamo a casa i nostri cari, siamo preoccupati, raccontava prima bene la collega, la paura che noi abbiamo nei confronti di questo virus, di cui non si conosce bene appieno il meccanismo di trasmissione e quelle che sono le conseguenze, e noi vorremmo essere dotati di tutti i sistemi di sicurezza secondo quello che il sindacato infermieristico americano ha definito il principio di precauzione. Siccome non sappiamo... La ringrazio ecco, Andrea Bottega. Ci chiama Eric. Eric, buongiorno. Velocissimo. Buongiorno Nicoletti. Lei è un odontoiatra. Io sono un odontoiatra, siamo un piccolo studio che ha sede all'Orso Testino, che per capirci sta a circa 5 km da Vo. Quindi noi già da quando è scoppiato il primo caso di Vo abbiamo cambiato i protocolli interni di accesso allo studio per un motivo di sicurezza sia dei pazienti sia degli operatori che lavoravano, perché essendo dentisti ovviamente siamo a pieno contatto con quello che è. Non bastava la mascherina che c'ha anche il mio dentista quando mi fa la pulizia dei denti, no? Quella lì non basta. Assolutamente no, perché la mascherina che utilizza un dentista come un medico di per sé va a proteggere quello che è il paziente, non va a proteggere l'operatore, anche perché la dimensione del virus Covid è molto più piccolo rispetto a certo, quello Eric, che è il filtro. Lo sai che ci stavo pensando? Questa mattina mi sta chiamando la segreteria del mio dentista per ricordarmi che avevo un appuntamento proprio per la sbiancatura dei denti. Credo fatto che in tempi felici. Mi auguro che sia un messaggio automatico, perché in questo momento tutti gli ordini, certo, e i colleghi stanno lavorando esclusivamente. Ma probabilmente mi hanno chiamato dell'urgenza per dirmi che è rimandato. Perché sembrano tempi che appartengono a un'altra epoca. Dico, pensa, una volta io mi preoccupavo della sbiancatura dei denti, oggi mi sembra una cosa talmente lontana dalla realtà. Ecco, il dentista è quello che mette le mani proprio dentro la fornace da cui potrebbe esserci il massimo rischio. Non solo, noi nel momento in cui attiviamo un banale trapano, una turbina si dice, produciamo uno spray aria-acqua che praticamente inonda la stanza a distanza di 2-2,5 metri, quindi ci irrora completamente se fosse un paziente. Ecco, ma in questo momento cosa accade, Eric? Se uno ha una emergenza, un dente da curare, da togliere, un lavoro lasciato a metà, deve rimandare l'appuntamento dal dentista, allora, o ci sono le condizioni per poter lavorare? Allora, in questo momento le condizioni, credo, per poter lavorare non ce l'ha praticamente nessuno, nel senso che negli stessi reparti dove ci sono Covid positivi, con tutti i dispositivi possibili e immaginabili, comunque c'è una percentuale di contagiati circa dell'8%. Questo a prescindere dal fatto che gente che è super preparata, sa come indossare i DP, li usa alla perfezione, ciò nonostante ci sono dei possibili contagi. Per cui noi, dal punto di vista medico, siamo medici, se una persona ha male ed è a rischio vita, ci muoviamo. Il problema è che in odontoiatria il rischio vita in realtà c'è rarissimo. Poi un ascesso che possa scendere dalla bocca a livello del collo e poi al cuore. E problemi ingestibili tipo un dolore lancinante per cui ci muoviamo. Però i colleghi, tra cui anch'io, mantengono gli ambulatori aperti per le urgenze. Per tutte le altre cose si viene spostati a tempi migliori, quindi uno sbiancamento banale lo si può fare tranquillamente, certo, più avanti, ciononostante, ripeto, i colleghi si stanno, almeno da questo punto di vista, comportando, vedo, tutti in maniera esemplare. Per cui grazie, Eric. Abbiamo loro involontariamente messo a punto un altro problema, che sono infinite, secondo me, poi le catene di attività quotidiane che eravamo abituati, che sono comunque compromesse. Abbiamo velocemente al telefono Caterina Cavina. Caterina, ti saluto soltanto perché ci sentiamo dopo la pubblicità. È un'operatrice sociosanitaria, una casa di riposo in Emilia Romagna, quindi al centro proprio, uno dei luoghi più caldi del Covid. È una scrittrice, l'abbiamo sentita tempo fa per un romanzo, Le radici dei fiori, edizione Pendragon. Tu in questo momento a che fare, con degli anziani? Sì, io sono innanzitutto a Medicina, che è la famoso paese diventato zona rossa come Codogno, quello con i 10 anziani morti della casa del centro sociale. Allora ferma un attimo, Caterina, do la linea, che devo dare la linea al traffico, ricomincio proprio fra un istante. 800240024, oggi dedichiamo la puntata di Melog ai professionisti sanitari. Abbiamo al telefono l'ascoltatrice Dania e Caterina Cavina, che è una scrittrice, la conosciamo per la sua elaborazione poetica della realtà, e oggi ci parla del suo lavoro. È operatrice sociosanitaria in una casa di riposo in Emilia Romagna. Io ho rabbrividito ieri, mi sembrava un film dell'orrore quando ho letto nelle Marche un ospizio in cui il 99% degli anziani erano contagiati. Raccontami cosa accade dalle tue parti. Allora, Caterina, io, come ho detto prima, io sono residente a Medicina, che è il famoso paese, purtroppo famoso ora paese, che ha avuto 9 decessi di anziani per il famoso focolaio nella bocciofila, come è stato chiamato così. Io però lavoro a Lugo, che è invece in provincia di Ravenna, quindi quando ieri mattina ho trovato i militari che mi impedivano di andare al lavoro è stato un po' un colpo. Tra l'altro noi OSS, operatori sociosanitari, non eravamo previsti ieri mattina nell'ordinanza della regione, non c'erano proprio dimenticati di scrivere OSS, avevano scritto infermieri e medici che potevano passare, OSS no. In serata, dopo tanti... Come dire. Quindi, diciamo, i tuoi anziani cosa hanno fatto? Sono rimasti soli? No, c'erano gli OSS di Lugo, ero io OSS di medicina, come altri OSS e altri infermieri di medicina, perché non ero solo io, siamo rimasti fermi, alcuni non sono potuti andare a Sant'Orsola, alcuni non sono potuti andare là, perché non c'era stata chiarezza nel dire chi poteva passare e chi no. Cioè, e cosa accade adesso, in questo periodo, nelle case di riposo? Allora, che sono stanno lì tutto il giorno a tremare, a aspettare, ci toccherà? Io sono molto fortunata in questo momento perché nella mia casa di riposo non ci sono state dei casi positivi. Ci sono stati dei sospetti che sono stati subito, cioè, anche a un raffreddore intenso, a una febbre, subito tampone. Insomma, si è tentato di capire subito che cosa hanno le persone. Però ovviamente questa emergenza ha avuto delle ricadute sulla vita di questi anziani, per la loro tutela. Allora, io nella mia casa di riposo ci sono 108 ospiti, almeno una cinquantina comunque scendono nelle zone comuni, mangiano insieme nel refettorio e hanno momenti di convivenza, socialità, lettura giornale, crocifero. Sono stati, diciamo, avvertiti delle norme di sicurezza? Sanno tutto perché guardano la TV e leggono i giornali, cioè non è che sono fuori dal mondo. Loro sono stati tutti messi nelle loro camere, quindi tutti i momenti piccoli, preziosi per loro di socialità sono stati eliminati per la loro sicurezza, ovviamente. Però è una necessità questa. Certo, loro non si può fare altrimenti, non si può fare altrimenti. Però capisci che in questo momento è molto delicato perché loro, diciamo che un ospite in casa di riposo sa purtroppo che deve morire e ha una visione, almeno quelli che conosco io, del coronavirus, non è come dire allarmistica e ansiogena come Diciamo, siamo consapevoli quando uno va in casa di riposo è l'ultimo approdo, però uno spera che sia sempre più lontano possibile. Ovvio. Però non so come dire, dal 1 gennaio da noi ne sono morti per cause naturali 6, capisci? Quindi loro hanno una percezione diversa, loro vivono il quotidiano, loro vivono il giorno, la colazione insieme, la loro sigaretta, la lettura del giornale, il cruciverba. Io non sto dicendo che queste misure non siano utili, anzi sono necessarie, per fortuna li dobbiamo isolare, però per farti capire l'impatto che ha su di loro, cioè più forte della paura del virus e della morte imminente, che loro ce l'hanno comunque radicata, è una consapevolezza, una sorta di distacco che hanno anche. All'inizio lo sbuffavano molto, basta parlare. Sì, ma ho capito quello che vuol dire, Caterina. In un momento in cui la morte aleggia è una presenza con cui si fa pace, perché si è in una casa di riposo e si è molto molto anziani, loro gli mancano quei conforti quotidiani che facciano sì che questa attesa avesse una dimensione umana. Vorrei un attimo sentire assieme a te Mara. Mara, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Mara è un'operatrice sociosanitaria di Roma. Di Roma, sì, periferia di Roma. Lei anche lavora con anziani? Sì, io sto al reparto di lunga degenza, quindi diciamo che sono tutti anziani, ecco. Noi non siamo in prima linea perché questa clinica è una grande clinica, però non ha pronto soccorso, però insomma ci arrivano i pazienti da ospedali di tutta Roma, quindi lavoriamo sempre con un po' di paura perché ci potrebbe essere anche la possibilità che arrivano magari pazienti positivi. Per ora ancora non è successo, speriamo che non accada. Il clima generale com'è, diciamo, fra le persone con cui lei ha contatti? Allora, le persone, cioè i pazienti qui, poverini, insomma, cioè chi ha l'Alzheimer, insomma, sono un po', però sono molto destabilizzati perché comunque non, la clinica ha chiuso ai parenti, ai visitatori, quindi ci ritroviamo proprio tante volte a coccolarli, a fargli fare noi le telefonate, la situazione è molto, molto critica. Lei Mara mi conferma però una sensazione che sta maturando durante questa trasmissione, su cui non si era sufficientemente riflettuto. Allora, diamo per scontato tutti che oramai il bersaglio che più può essere colpito dal coronavirus sono le persone dai 65 anni in poi. Quindi sto anch'io in questa categoria, mi sento dentro, non parlo di qualcosa di estraneo. Però non avevamo considerato che in realtà c'è una fetta preponderante di queste persone che non vivono in famiglia, vivono in delle situazioni alternative alla famiglia, che sono appunto quei centri per anziani che uno spera che siano a dimensione umana. Poi molte volte, quando si vedono le intercettazioni fatte alle forze dell'ordine, si capisce che tanto umani non sono. A cui mancano però quegli ammortizzatori alla sopravvivenza, che sembrano cose piccole e minime, che però per loro sono fondamentali. Diventa la ragione di una giornata, di una settimana, di un mese, un parente che deve venirti a trovare. Quando non c'è, è un problema. E Caterina, rispetto a quello che ha detto la tua collega di Roma. Verissimo, nel senso che anche noi abbiamo da 2 settimane interrotto l'afflusso di volontari, di parenti, di amici, di tutte le persone che rendevano più vivibile questa lunga attesa, e ci sono stati dei momenti veramente di pianto. I più fragili hanno accusato il colpo, e noi ovviamente, noi in quel momento si vede quando la casa di riposo è una grande famiglia e ci siamo veramente adoperati. Ovviamente c'è invece chi è più preoccupato, forse le persone che forse capiscono di più, sono più preoccupati per i figli, perché dicono non possono venire qui, ma non possono neanche andare a lavorare, e quindi chissà cosa gli succederà alla loro economia. Cioè, quando gli abbiamo detto non può più venire tuo figlio, ad alcune persone hanno detto l'importante è che siano bene, che non perdano il lavoro. Cioè, quindi dipende il livello di consapevolezza. Altri anche sono questo è un altro particolare che raramente si legge nelle cronache di questi giorni. Soffermiamoci sulla popolazione a rischio. Oltre a rischiare per sé, e abbiamo visto che in molti casi la paura, lo spettro della morte non è poi la loro angoscia quotidiana, sono angosciati per i figli, perché un padre continua a mantenere tutta la vita il pensiero e l'angoscia per un figlio, anche se il figlio cresce, anche se il figlio è grande, anche se il figlio è autonomo. E in questo momento, vedendo una situazione generale di disagio, di problemi economici, di problemi sociali, è chiaro che l'anziano è in mezzo a due fuochi. Da una parte si sente il bersaglio in prima linea, nella prima linea di fronte alla mitragliatrice del nemico, e in secondo piano ha l'angoscia perché è rimasto a casa, per i figli, per i nipoti, per quelli che non sa se potrà vedere. Dania, vorrei che chiudessi te questa trasmissione, che conosci un po' lo stile e il ritmo di Melog, e non vorrei chiuderla troppo in maniera angosciosa. No, io vorrei rinnovare il messaggio, che mi pare che non tutti ancora abbiano capito, che il comportamento di tutti, cioè dal comportamento di tutti dipende la ripresa prima possibile per poter tornare alla vita quotidiana. Quindi, cioè, cercate di stare a casa, ormai lo sanno anche le mura, si legge da tutte le parti, di stare a casa il più possibile, di uscire solo ma per le necessità di vita o di morte, basta, se no, no non ne usciremo mai. Ecco, mi sembra quello che dice Dania, quello che penso può ripetere Caterina, può ripetere Mara, può ripetere tutte le persone che oggi abbiamo sentito, sono in prima linea. Non è un gioco, non giocate. Belle le canzoncine ai balconi, bello fare allegria, bello sentirsi uniti, bello l'inno nazionale, sta tutto bene. Però il coronavirus è soprattutto quello che vi abbiamo fatto sentire questa mattina. Il resto sono cose che passano, di cui ci dimenticheremo o ricorderemo come i racconti terrificanti che facevano i nostri genitori e noi figli. Alla prossima.